Cos'è successo? Gli ha dato un calcetto? Ha allungato il piede? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Io tendo a propendere per la seconda, per quella di Rossi. Mi riesce difficile pensare che Rossi sferri un calcio a Marquez, per quanto esasperato la sua esasperazione l'ha consumata portandolo largo, sbagliando, lo ribadisco, ma alla tesi del calcio faccio veramente fatica a credere. Valentino è un grandissimo sportivo, leale. Io faccio il tifo per lui fino all'ultimo, perché non è finito il campionato, c'è ancora una gara, ancora una penalizzazione che io considero eccessiva, ingiusta, la considero proprio ingiusta. Sull'episodio, per onestà, devo dire che io non l'ho visto. Mio figlio, che è l'appassionato di famiglia del MotoGP, dice che Valentino stavolta ha sbagliato, perché si è fatto tirare dentro in una reazione eccessiva dall'altro che l'ha provocato tutto il tempo. Si è fatto un po' tirare dentro da un pivello. Lui è un atleta di grande spessore, e di qualche anno in più poteva dargli di lungo a questo signore che non so, insomma, che la Marquez sì, che l'ha naturalmente portato a prendere un'azione un po' discutibile. Per la prima volta lui è caduto al tranello che lui stesso aveva fatto. Quindi anch'io tifo Rossi, è un fenomeno, però, ci ha regalato spettacolo anche domenica mattina, però purtroppo lì ha sbagliato. 60 milioni di italiani hanno un'opinione su quello che è successo domenica in Malesia ad una icona dello sport, del costume, del lifestyle italiani, cioè Valentino Rossi. Abbiamo sentito Guido Meda, vabbè, telecronista, ha detto i lavori più che mai. Abbiamo sentito Jovanotti, Salvini, Maionchi, Scanzi, tutti con un'opinione che propende verso Valentino. E ha raggiunto Pierluigi Pardo. Come va? Molto bene, tu? Anch'io propendo. Anche tu propendi, eh? Sì, beh, poi è chiaro che il gesto è un gesto sbagliato ed è un gesto che non... che si sarebbe fatto bene, cioè è caduto in una trappola e ha fatto un errore e insomma, diciamo, ha anche messo in pericolo l'incolumità di un collega, però ci sono delle attenuanti, secondo me ci sono delle provocazioni. Lo ha tirato fuori dagli stracci. Sì, ma sai, come diciamo ieri a Tikitaka con l'esimio dottor Terruzzi, c'è uno che attacca briga. Sì, c'è uno che va a cazzotti. Questa cosa qui, diciamo la verità, da non esperto di moto non mi era chiarissima, dopo aver parlato con, insomma, è chiaro che c'è un terzo incomodo che si è messo a fare la gara su di lui, sì, giusto per il gusto di rompergli. Esatto, ecco. Quando una legge non scritta e quindi modo se mondiale, mi rompi, non... capisci a me. Questa è la mia idea. Detto questo, poi adesso ti faccio la forza di un grande campione dovrebbe essere quella di controllarsi sempre, di... Sì. In un mondo ideale, questo è evidente. E Valentino Rossi spesso è riuscito a vivere in questo mondo ideale. Adesso ti faccio sentire cosa dice invece Carlo Pernat, 36 anni nel moto mondiale, tra l'altro l'uomo che ha fatto esordire Valentino Rossi nel moto mondiale nel 94, manager di Biaggi, Capirossi, Simoncelli e moltissimi altri, insomma un luminare di quel mondo, un padre fondatore. Buongiorno Carlo. E grazie del padre, magari anche nonna a questo punto. Io partirei dall'ultima frase che ieri hai scritto in maniera durissima, che è questa: il moto mondiale è stato ammazzato. Non so se il futuro, non parlo solo di Valencia, sarà come prima. Onestamente non lo credo per niente. Sì, guarda, l'ho scritta a caldo, ti dico la verità, prima di rivedere le immagini dall'elicottero di quello che è successo tra Valentino e Marquez. Però la prima impressione, e l'ho ancora adesso, che il moto mondiale è stato, se non ammazzato, perlomeno è stato reso in modo comatoso. Perché... quello che io ho visto fare a Marquez in 36 anni di motomondiale non l'ho mai visto. Scorretto, molto scorretto, soprattutto nei confronti di un pilota dove lui non si giocava assolutamente più niente. Non crediamo alla palla del terzo o quarto posto, ma per essere chiaro, leviamo da ogni nuvoletta che rimane in un cielo sereno, come dico io. Io ricordo, e apro una parentesi, che nel 1988, ogni tanto i ricordi servono, dico io, correvano gente come Schwantz, Rene, Spencer, Kenny Roberts, insomma, per chi sa di moto, sì, stiamo parlando di persone di un certo livello. C'è stata una gara in Giappone dove un pilota, che io dico innominato perché non posso dire chi è, ha fatto un po' quello che ha fatto Marquez contro Lawson, che si stava giocando il mondiale. Sì. Non come ha fatto Marquez, ripeto, al 50%. Lawson ha vinto lo stesso. Alla sera, mi sono incontrati, ce l'ho anch'io, in un baretto di Suzuka, che è il circuito giapponese, dove ci si vedeva la sera, domenica, a prendere delle gran birre, e Lawson, René, Garden e Spencer gli hanno cioccato quattro cazzotti a questo pilota, tanto per essere chiari. Tanto per essere chiari. Bravissimo. Erano altri tempi, ma le regole non scritte sono le stesse. Certo. Perché c'è una regola non scritta dove quando non ti giochi niente non vai, puoi andare a fare qualcosa, giustamente, perché corri, ma non puoi fare quello che hai fatto. Sì, mi sembra che l'abbia sottolineato lo stesso Lawson, no? Bene, ma mi pare proprio di sì. Esatto, quella volta l'ha sottolineato con un cazzotto, questa volta parole. Ecco, la seconda inaccettabile, secondo me, onestamente, è un po' quella di Valentino. Non ha fatto niente di male, nel senso, voglio dire, non ha dato lei, non l'ha buttato per terra volontariamente. Si è girato, è andato largo, e questa è una manovra scorretta, onestamente, anche se dettata da una logica, secondo me, rivalsa, a dire: ma cosa vuoi tu da quattro giri che fai questa cosa qua, io mi gioco il mondiale, punto. E quindi lì Valentino, un attimino, ti dico, un pochettino di ma colpa. La sensazione, Carlo, è che l'abbia portato largo apposta, cioè nel senso ha detto: adesso certo, ti porto sull'erba. La sanzione è perché lo porta fuori, no? Cioè, esatto, ma non allora è per il calcio. No, presunto calcio. Bravissimo, infatti concordo un pieno. La terza cosa però che do 0,0, che ha ammazzato forse di più di questi, di quello che è successo, è la direzione gara. Ma certo. Formata da tre professionisti, di cui uno inglese, Mike Webb, un italiano, Franco Uncini, e uno spagnolo. Per cui non si tratta di complotto, sai, sento parlare di complotti. Ma no, lasciamo perdere, bravissimo. È stata non presa una decisione, che è facilissima. Hanno 63 monitor, ragazzi, nella loro torre di controllo. Dopo due giri hanno visto persino se è passato un vermiciattolo sul circuito, tanto per dire una stupidaggine. Bastava che decidessero di dare a Valentino un right through, che significa passare nei box, perdere 20 secondi, 25. Bravissimo. Valentino si finiva la tua gara settimo, sesto, ottavo, non lo so. E finivano che erano a pari punti. Questo episodio l'avremmo rimarcato meno, anche se l'avremmo rimarcato, perché Marquez merita veramente il cosiddetto ludibrio della gente, tra virgolette, no? Invece questi qua non hanno deciso. E alla fine hanno fatto una decisione antipolitica, perché è andata a Valentino l'ultima fila a Valencia, che, come dire, condanna a morte sportiva, cioè è quello che ho detto io, l'esecuzione in diretta del re, perché dire, poi può succedere di tutto, possiamo dire mille cose, però a me sembra tanto una condanna a morte sportiva in diretta. Bravissimo, è come dire: guarda che c'è il prete nelle scale, certo. Capisci, il termine simpatico fino a un certo punto. Quindi sono tre episodi che un po' l'hanno ammazzato molto mondiale. Vi spiego anche perché. Due cose, secondo me. Primo, non vorrei arrivassimo a livelli calcistici. Non, io sono un tifoso di calcio, attenzione, per cui, ma mi considero non un becero tifoso di calcio. Si formano delle fazioni, come è giusto che si formino. Ci sono i fans club, attenzione, che vanno 20-25 mila persone giù a Valencia, del fans club di Valentino, c'è il fans club di Marquez. Si fa presto poi a degenerare, attenzione. Quindi questo è il primo pericolo che noi abbiamo e avremo in futuro. E secondo, in questo momento faccio una provocazione e mi chiedo: ma ci sono tutti i contratti firmati fino a fine 2016, lo sappiamo, ma voi pensate che prossimo anno Valentino e York e Lorenzo possono stare assieme dopo quello che ha dichiarato Lorenzo, vergognoso anche lui, in sala stampa, dicendo che tutto il mondo ha perso la stima di Valentino? Ma stiamo scherzando? Io credo proprio di no. Andiamo, bravo, Carlo, chiedo un attimo di pazienza, che abbiamo il traffico, e poi commentiamo anche con Pierluigi tutto quanto ci hai detto. Un attimo solo. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta convocati. Marquez è partito con l'idea deliberata, e l'ha dimostrato in pista, di rompere le scatole a Valentino Rossi, di fargli perdere il mondiale a favore, o comunque di fargli perdere più punti possibile a favore di Jorge Lorenzo. E secondo me queste cose in uno sport individuale come quello del motociclismo non ci stanno. Sono bruttissime da vedere, è sembrato proprio un gioco di un bambino dispettoso che vuole nascondere, la palla a un suo amico che gli sta sulle scatole. Questo era il commento di Loris Reggiani, uno tra i più duri. Pierluigi Pardo, Carlo sì, Perna, allora, che è collegato con noi, ha sollevato due dubbi abbastanza inquietanti. Il primo, quello di a Valencia Corrida andranno 25.000 italiani fan di Valentino Rossi, ci sono gli spagnoli e questo può essere già qualcosa di una deriva pericolosa. Sì, sì, insomma, diciamo, ci auguriamo che tutto vada bene, però... Però è chiaro che si è creato un clima quasi da incidente diplomatico fra due paesi, insomma, che sono spesso rivali nello sport, ma insomma, che hanno un rapporto mediamente tranquillo e sereno. E, io non so se sia morto, ma è chiaro che il MotoGP sicuramente non esce bene da questa vicenda. Dal punto di vista strettamente cinico dell'interesse di questi giorni, il MotoGP esce benissimo, nel senso che adesso si vive per Valencia, per l'ultima gara del mondiale, sì. Non si parla d'altro. Come ti dicevo, 60 milioni di italiani hanno ci siamo loro quasi parere. Dimenticati, anche se dopo ne parleremo, che stasera c'è Bologna-Inter, che domani c'è la giornata di campionato, quindi da questo punto di vista insomma credo che sia un epilogo straordinario. No, a me la cosa che sembra incredibile, ho visto Rush come tutti i profani dei motori, mi ricordo Jerez della Frontera, Senna, Prost, Schumacher, cioè, mi sembra che stavolta sia veramente una cosa di una meschinità irreale, perché c'è un terzo incomodo protagonista che non ha fatto nulla, secondo me, di vietato da quello che ho capito, ma che si è comportato in una maniera veramente da ragazzino. E quindi, ripeto, poi Valentino non doveva cadere nel tranello, sicuramente ha sbagliato, però insomma doveva essere punito nel modo e nelle forme che non so, perché siete più esperti di me. Però mi sembra veramente una no, pagina brutta, ne esce male Marquez. E credo che comunque andrà a finire questa storia, sarà importante recuperare una gioiosità che in questo momento non c'è. Cioè Valentino, al di là di questo mondiale vinto o perso, è una delle icone mondiali dello sport, è uno che ha un milione di fan pure in Spagna, sì. E deve uscirne alla grande, no, ma poi indipendentemente da come andrà a finire, deve uscirne alla grande, deve uscirne da rockstar, quale lui, certo, è la gallina dalle uova d'oro della Dorna, tra l'altro. Cioè, Carlo, tu sei su tutti i circuiti del mondo, mi confermi che su qualunque circuito ad ogni latitudine l'80% delle tribune del tifo, sono, esatto, sono gialle col numero 46. Guarda, te lo confermo, 70% ed è tra virgolette tipo lo stadio, perché tu vedessi e sentissi nei circuiti quando Valentino sorpassa uno, sembra che abbia fatto un gol il numero 10 della tua squadra, tanto per essere chiaro, questo è vero. Però io, ripeto, sono preoccupato, ha ragione Pardo, cinicamente c'è un ritorno esagerato. Io preferirei ci fosse un ritorno su un duello pulito, no, cioè, ma questo, che chiaro, è una cosa di chiaro, questo genere, evidente. Però io ho paura che un po' di male ce lo siamo fatti e che tanti un pochettino si allontaneranno. Immaginate anche il prossimo anno, supponiamo che non cambi niente, cioè al di là chi vinca il mondiale, lo vinca Lorenzo, Valentino, e io spero Valentino, perché tutti noi speriamo Valentino. Il prossimo anno vedere dalla prima gara duello Marquez-Valentino, cioè io oggi non lo vedo, cioè non lo immagino, no, io neanche. Non lo presumo, però ragazzi non lo so, e vedere Lorenzo il compagno di squadra, ripeto, di Valentino dopo quello che ha dichiarato, ma io devo dire mille volte brava Pedrosa, che sarà sicuramente uno che comunicazione ne fa l'1% di quello che fa Valentino, però fa la sua gara, sì, non sì. Parla mai contro nessuno. Se lo vedi in moto è alto un metro un citofono, dico io, nel senso che è 1,48, si attacca al manubrio, non può altro che guidare pulito, perché se va pure traiettoria cade, sì. È sfortunato, lo chiamiamo Paperino, vince come vince, però posso, ma vada lui in vetta, vada lui però in vetta, posso, dirti che, forse è proprio per questo che proprio perché gli manca questo, che Pedrosa non vincerà allora, mai un mondiale, cioè proprio perché gli manca questa, allora, questa cattiveria agonistica, puro, dico che lui purtroppo è handicappato tra virgolette, perché essendo piccolo, certo, non è sciolto sulla moto, evidente, e quando si tocca è talmente fragile che si rompe sempre. Però se tu lo vedi è il pilota più tecnico del mondo, sicuro. Vai a vedere un video, certo. Lo dai alla scuola e dici madonna sto qua, ma non questo è che guida, questo fa è binario. Però viva Valentino, ci mancherebbe, ma altro, assolutamente, ragazzi. Ma stiamo adesso che succede? Perché io su Facebook leggo delle robe tipo gruppi con centinaia di migliaia di persone, Iannone deve far cadere Lorenza, ma guarda, veramente, ecco, Iannone tra l'altro è un mio pilota, per cui c'è lo scudere. Guarda, Iannone è, però sai qual è, che sono amicissimi con Valentino nella sua vita, tanto per fare un discorso tanto apriamo rotta libera, ha sponsorizzato solo due piloti. Uno era Marco Simoncelli, e ricordo che anche quando lui non andava in televisione diceva: ragazzi, attenti a Marco Simoncelli che comunque sarà forte. E l'altro è Andrea Iannone, che l'ha sempre sponsorizzato. E non è che abbia sbagliato fino adesso, almeno su Marco non ha sbagliato, su Andrea penso nemmeno. E lui si fa delle amicizie in questo modo, ma se le fa spontaneamente. Valentino è veramente una delle persone più spontanee e belle che ho incontrato mai in vita mia. È ironico, è un amabile figlio di brava donna, nel senso buono della parola, amabile tra virgolette, perché anche lui non è che uno stinco di anche sangue, brava donna tra virgolette soprattutto, sì, dovendo scegliere, per dovendo scegliere cosa virgolettare, ecco, io andrei su brava donna. Ma sto scherzando, però anche lui non è un santo, qualche insomma, così non l'ha fatto anche lui come tutti i campioni. Però ragazzi, Valentino è un puro poi alla fine, perché Valentino una cosa di questo genere a un altro non l'avrebbe mai fatta. Ma no, ma di sicuro, ma io credo che nessuno l'avrebbe mai Penso veramente quello che esce peggio in questa situazione è Marquez. Correggermi se sbaglio, è il talento del futuro di questo sport, e adesso avrà questa macchia da Ma guarda che a me tra l'altro era molto simpatico, ti dico, anche perché simpatico perché era un po' l'erede di Valentino nel suo modo di essere, nella simpatia, nel fenomeno, perché poi è un fenomeno, parliamoci chiaro. Vabbè, Valentino 3 anni fa mi ha detto: Carlo, ma ora ve lo spiego e ve lo posso svelare, lo odio, ma tu non hai idea di che finto buono che è. Ma io dico: ma sei sicuro? Credimi, ragazzi, lo ha sempre odiato e quello che pensava 3 anni fa era la verità. Pensa a te, questa non lo sapevo. No, allora, però fatemi capire adesso, senza, come ieri a un certo punto a Tikitaka abbiamo fatto vedere una diapositiva ironica, basta non si sia fatto male nessuno, le moto si riparano, una cosa in romanesco, che era una chiosa abbastanza divertente. Bella, dai, quindi partendo dal presupposto che nessuno si deve far male, che cosa potrebbe succedere? C'è qualche alleanza sulla quale Valentino può contare, qualcuno che lo lascia passare? Guarda, ti posso dire una cosa, i piloti che vincono 9 campionati del mondo come lui e sono sempre in comunicazione non sono mai amati dagli altri, è normale, certo. Cioè è impossibile che... Chiaro. Quindi ogni pilota è un piccolo conticino, possiamo dire, da far pagare a Valentino. Io credo che l'unico un po' alleato che ci può essere è Iannone, che è suo amico. Petrucci? Danilo sì, ma ci sta un po' fuori, secondo me. Anche Dovizioso non è che c'è buoni rapporti, ci sta un po' fuori. Io credo che Valentino se la deve sfagiolare da solo. Vabbè, quindi si fa doppiare. Se la deve sfagiolare da solo. Guarda, si fa doppiare dopo 4 giri no. E si fa giustizia da solo. No, io ricordo una sola volta, se vi ricordate, quando vinse il mondiale Fausto Gresini, che tutti gli italiani, compreso Capirossi l'anno 90 se non sbaglio, si misero tutti assieme a girare intorno a Spahn, che era un olandese, e se vi ricordate vinse il mondiale Gresini perché tutti girarono intorno a questo. Non fu una bella cosa, però successe. Sì, sì. Boh. Quindi no. Carlo, nel salutarti, allora diciamo che tutte quelle fotografie, i sorrisi, gli abbracci, volevose tanto bene tra Valentino e Marquez che abbiamo visto in questi 3 anni. 3 anni fa ti ha detto: ma hai visto che fa il suo ma guarda, secondo te questo qua c'è il poster in camera di Valentino? Ah no, ma eh? Non scherzi. Ah no, ma magari da piccolo sì, poi ci aveva 3 anni. Le cose cambiano, dai, poi da mito diventi rivale. Va bene. Allora adesso facciamo 800 24 00 24. Tutti, chiediamo ai nostri amici ascoltatori tutti i modi fantasiosi per riuscire a fare qualcosa a Valencia, ovviamente, insomma, senza nei limiti del rispetto della vita umana, perché poi se fosse un altro sport uno potrebbe inventarsi le cose più spregiudicate. Qui chiaramente non è che uno può, ecco, se sbaglia apposta a calcio di rigore. Grazie Carlo. Grazie a voi. Un abbraccio, Carlo Perna. Allora, Sergio Darodi, Andrea Darovigo, state lì. Borsa. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Sergio Darodi, Andrea Darovigo, Pierluigi Pardo qui con me. Ma non Sergio. Ho voglia di far entrare quelle due persone soli. No, c'ho poca voglia. No, ma proprio non va bene. Chi è? Sergio Darodi? Sergio Darodi. No. Buongiorno Sergio, come va? Pronto. Allora, voglio dare una mia impressione. Vai. Allora, ore 15. Sì. Giro, Russo, il dottore alza il gomito a Marche, ma si riferisce ai giudici. Attenzione, non ho capito niente. Ora che ricominciamo. Con calma. Che cazzo fai? Gli dice a Marquez, ma lo fa capire ai giudici. Sì. Due giri, il ragazzino gli corre dietro a 200 all'ora, rallenta la moto, si affianca e gli dice: lì c'è il prato, o per terra, seguite. Questo è quel casino Rossi. Beh, chiarissimo. Guarda, chiarissimo. Dice, lì c'è il prato, o è per terra. Sì, è andata... 4 ore dopo, 20 alle 20, stesso campionato del mondo, stesso Siena, Berger. Rosberg in pole position, Hamilton si affianca, dice lì il prato, come viene addosso col prato. Sento, io giuro, non ho capito nulla. No, ti spiego io. Cioè, c'è stato il primo vaffa di Valentino a Marquez, due giri dopo è successo un fattaccio. Sì. E Sergio dice: lo ha spinto all'esterno, al punto in cui non poteva tentare alcun sorpasso. E gli ha detto: vuoi piegare la moto? Ma tu hai capito perché sei lombardo e quindi. Io non ho capito niente. De Luca, tu hai capito? De Luca no, è svenuto. Andrea Rovigo? Dica. Buongiorno a tutti. Buongiorno. A Rovigo nome Trigo. A Legnago nome Vago. Allora, io vorrei riallacciarmi un attimo all'ultimo episodio che ci ha raccontato Pernat. Sì. Questo mi dice che le uniche regole sono quelle scritte, quelle non scritte ci sono e anche no. Perché Marquez, per carità, è andato a pungolare Rossi. Sì. E non è da giovedì, è da molto prima che Marquez pungola Rossi. Sì. E Rossi pungola Marquez. Io dico che chi va in giro a dar cazzotti prima o poi trova quello che gli rompe la faccia. E Valentino, che è uno che non si tira indietro a provocare gli avversari, non si è mai tirato indietro a provocarli, adesso ha trovato uno che con le sue stesse armi gliele sta girando contro. Ma Valentino non ha mai corso contro un altro pilota per non fargli vincere il mondiale, se non ricordo male, e non ricordo male di sicuro. Valentino ha sempre corso anche in maniera durissima ai limiti del regolamento per vincere i mondiali e contro il suo avversario diretto. Luca Bizzarri, buongiorno. Sono d'accordo. Come va? Come va? No, abbastanza bene, se non fosse per Genoa la mia vita sarebbe... Ecco, ma è stato più eccitante questo weekend Empoli-Genoa oppure il Gran Premio di Sepang da motociclista, signor Bizzarri? Empoli-Genoa ha fatto cagare, ecco. Invece il Gran Premio di Sepang è stato bello, ho combattuto. Ti è piaciuto? Mi è dispiaciuto come sia l'epilogo così... come l'ha definito Terruzzi, un epilogo dopato, e quindi quello mi è dispiaciuto. Però questo credo che la prossima gara farà il 100% di share, perché a questo punto io voglio vedere che cosa succede. Sarebbe meglio mandarla all'ora di tiki-taka, facciamo qualcosa. Di Colorado. Colorado domani sera, come fai a vedere Torino-Genoa domani sera? Non la vedi? Così. Non la vedo, ma non credo che mi perderò molto visto il giro di sabato. Adesso vediamo, speriamo che sia stato un passo falso, ma l'ho vista proprio brutta. Senti Luca, ma per chiudere, poi ti lascio alle prove di Colorado, nei 60 milioni di italiani che in questo momento hanno un'opinione sul fatto Marquez Rossi, tu da che parte stai? No, io sto assolutamente dalla parte di Valentino. Io odio un po' queste cose di stare tutti, cioè di questi movimenti popolari. Penso anche che se un italiano, rimanendo nel regolamento, anche se facendo molto il furbo in maniera scorretta, avesse favorito un altro italiano per la vittoria del campionato mondiale, ce la saremmo un po', avremmo un po' ridacchiato sotto i baffi, che penso che sia quello che stiano facendo gli spagnoli. Certo non è stato un bel comportamento per niente, mi dispiace, perché secondo me Valentino questo mondiale se lo merita. Se si ritira Valentino vai tu sulla Yamaha, mi è stato detto. No, io sono veramente scarso a andare in moto. Non è vero. Questa è una leggenda. Volta... È una leggenda che propugna lui, ma non è vero. Bravo. Pure tu sei motociclista, no? Anch'io sono motociclista. Cosa si prova lì in quelle pieghe quando piegate? Io sono andato una volta sulla 999 biposto dietro. E credo di me lo ricorderò tutta la vita. Cioè, l'accelerazione di quelle moto è una delle cose più impressionanti che abbia mai provato in vita mia. Grazie, Luca. grazie. Dai, ragazzi, buon lavoro. Ciao, buon, ciao. Buon Colorado. Ciao, merda, merda, merda, merda. Si dice così. Si dice così. Fanno noi artisti. Artisti di che? Giro un po' di messaggi. Allora, vi ricordo che la stessa astuzia è stata utilizzata da Materazzi a Berlino, vincendo i mondiali. Nessuno si è lamentato. Parlami di questi paralleli che vengono fatti con Materazzi. No, allora, Materazzi, secondo me, è una storia diversa. Perché, perché fa parte di una provocazione a un avversario in una partita dove tu giochi contro l'avversario. Quindi sì. Non c'è il terzo incomodo. Poi che Marquez possa stare sulle scatole rossi, questo è chiaro, evidente. Insomma. Però la cosa veramente. Però è sempre provocazione e reazione. Sì. Però la cosa fastidiosa, e quindi in questo il paragone ci può stare, la cosa fastidiosa è il terzo incomodo, cioè la cosa fastidiosa di questa vicenda è il terzo incomodo. Sicuro. Se Lorenzo fosse andato lì, insomma, era... Bene, allora ti chiedo un'altra cosa. Dica. A proposito di terzo incomodo, dov'è che ho scritto i miei esempi qui, non li trovo più, ma te li ricordi anche tu: Roma-Lecce, Lazio-Inter, Roma-Sampdoria con sì. Ranieri in panchina, il doppio Verona-Milan, ce ne sono poi molte altre sì. che magari ti ricorderai tu. E allora? Beh, allora, innanzitutto sono casi diversi. Roma-Samp del 25 aprile 2010, una partita dove la Samp doveva andare in Champions League e ha vinto. Il primo tempo la Roma da fare 3 gol, non l'ha fatti. E la Samp ha, ecco, poi vedo anche qui la gradinata su, cioè la gradinata sud e la gradinata nord, cioè abbiamo tutti in regia che annuisce. Quindi la Samp sicuramente ha fatto il suo, pensando a se stessa. Roma-Lecce, però io adesso, al di là delle leggende metropolitane, il calcio a scommesse, le cose, il premio a vincere. Qual è, se c'è una squadra che ha un obiettivo e una squadra che non ce l'ha, qual è il comportamento sportivo? Ti devo lasciare la partita? Cioè, no, siamo arrivati al paradosso che se io sono già retrocesso e vado a vincere in casa di una squadra che lotta per lo scudetto, sono io quello scorretto? Poi certo, può rimanere il dubbio del premio a vincere, che in Spagna hanno istituzionalizzato, fra l'altro, quindi dell'interesse di un certo tipo. Cioè, noi possiamo pure pensare che Lorenzo, alla fine, se vince il mondiale, regali 80 metri quadri a Formentera a Marquez, no? Uno può pensare quello che vuole, o che Valentino Rossi li possa regalare a Iannone se gli fa un regalo all'ultima. Possiamo pensare quello che volete. Ricordi Parma-Napoli dell'anno scorso, tutto il casino che ci fu dopo. Parma-Napoli, tutto il casino, certo, ma no, è ovvio, perché poi ci si è nel calcio abituati delle volte, e questo è chiaramente un malcostume, alla antisportività, all'idea che se io non ho niente da chiedere, mi devo fare i fatti miei e ti devo lasciar vincere, perché diventa quasi una forma di scorrettezza, come nel caso di quel Parma-Napoli l'anno scorso. Ma il Parma l'anno scorso, giustamente, poi è stato ricordato come un esempio di sportività, perché si è giocato le partite sempre e comunque fino all'ultima giornata per il piacere di giocarle. Quindi, però questa è un'altra cosa, questa è un'altra cosa. Qui è uno che arriva e che, invece di andarsene, perché confermatemi, esperti di motori, invece di andarsene perché c'aveva un secondo a giro in meno, quindi poteva farsi la sua gara e andare a prendersi il terzo posto tranquillamente, o magari andare a rompere scatole a Lorenzo e a Pedrosa per andare a vincere il Gran Premio, stava là a rompere scatole a Valentino deliberatamente. Ma questa è la logica che c'è in tutto questo. Ma vi rendete conto delle cazzate che sta dicendo? Grazie, squisiti. Se ti stai giocando in mondiale, tutto è permesso. Noi sì, gli altri no. Semplicemente penosi. Sì, ma Marquez non si stava giocando in mondiale. Fra l'altro, ho scritto falsi e ipocriti come Valentino e Marquez. Quindi io non ci ho capito nulla. Anche io, perché. Signor Umberto, io lo voglio bene. L'oggetto è chiaro che se noi sì, gli altri Valentino no. e Marquez fossero stati lì per giocarsi il mondiale. No, se allora, premesso che Valentino ha sbagliato, è caduto in una trappola e ha sbagliato. E lo ribadiamo per l'ennesima volta, è chiaro che non stiamo parlando di hockey pista, quindi non è che c'è una pallina che ti sbatte su un ginocchio, stiamo parlando della vita dei piloti, quindi tutto ciò che viene fatto ovviamente può diventare pericoloso, e la cosa importante è che nessuno si sia fatto male. Detto questo, se Valentino fosse andato a rompere scatole a Marquez in lotta per il mondiale con Lorenzo, non sarebbe stato un comportamento sportivo, e credo che l'avremmo detto. L'avremmo detto, certamente con meno enfasi, perché siamo italiani, quindi alla fine non ce ne fregava niente, ma l'immagine di Valentino sicuramente sarebbe uscita male se avesse fatto quello che ha fatto Marquez l'altro giorno. Ha torto l'ascoltatore che prima è intervenuto dicendo che le leggi non scritte non valgono nello sport, invece valgono. Molti piloti lo hanno sottolineato. Traffico. Le vuoi dire che non mi staccano il microfono a questi signori che mi fanno parlare questi, lo puoi dire? Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Tutti convocati. Prendiamo un rapido Claudio dalla provincia di Pisa, poi sì, c'è un tuo amico. Ma aspetta Claudio, aspettaci un secondo, perché c'è Claudio da Guardia Grele che propone il Guttalax nella colazione. Poi siamo c'è invece un altro tempi, ascoltatore che dice Valentino si stacca domenica, al momento buono rompe il motore, la pista si riempie di olio e oh, qualcuno scivola. Chiaro che l'ha fatto apposta, ma come per Marquez non va dimostrato. Poi da campione del mondo va in Yamaha e dice o io o lui, in caso di risposta negativa se ne va da Brivio in Suzuki e l'anno prossimo guido solo per favorire Pedrosa. Straordinario, diabolico il nostro amico ascoltatore. Poi ci dicono ma Parco è deficiente o è ubriaco? Parco sarei io, penso. Ubriaco direi di no, quindi propenderei per deficiente. Poi è vero che dal 96, ah no scusa, questo qui, non nascono più omosessuali per la conformazione del pianeta Nettuno. Ma no, ma sì, cos'è? È vero. L'ho sentito anch'io, sì. Dai. No, per un attimo ci ho creduto. Ma dai, Claudio. Che tristezza, provincialismo italiano. Scusa un secondo, Rossi ha sbagliato punto. Mai se abbiamo, abbiamo eletto Materazzi a eroe. C'è molto l'esempio di Materazzi. E va bene, andiamo avanti. Se fossi Lorenzo, sceglierei di partire ultimo insieme a Vale, Mimmo La Foggia. Sì, sì, Mimmo La Foggia. Tra l'altro, ha visto un pezzo di Tiki Taka ieri sera. Lorenzo, chissà se anche Rossi. Lorenzo, vi giuro che ha visto un pezzo di Tiki Taka. Ho le prove, prego. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, proprio in seguito a tutte le vostre considerazioni dell'ultimo momento, io avrei un suggerimento per i 20 fra lui e i primi: lasciarlo passare al via senza ostacolarlo. Cioè, il mare che si apre, antipatico, amico mio, antipatico. Valentino che arriva, antipatico perché, no, perché va detto, questo l'abbiamo detto ieri, lo ripetiamo a prova di onestà intellettuale, che Valentino da pilota all'inizio della carriera non è stato un pilota diciamo tranquillo, ma è stato uno aggressivo, ne ha mandato a manicomio, in più uno che vince a 20 anni, come tutti quelli molto molto bravi, qualche invidia se la tira dietro, e quindi mi sembra difficile questa cosa qui. Fra l'altro in vari ci dicono che c'è questo precedente di Assen, sicuramente, sì, in Olanda, no? Vogliamo ricordare, gente, cosa è successo, sì, Valentino, Valentino ingaggiò questo duello con Marquez e Marquez finì per terra, ma cioè lì si era all'interno di una di un certo di una sfida fra loro due. Esatto, di una sfida tra loro due. Poi ne ha fatte di tutti i colori anche Valentino, Sì, sì, ma Gianpaolo Montalice, sai? Buongiorno Gianpaolo. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno Pier. Come va? Bene, bene, non male. C'è un nella pallavolo o nel calcio, visto che tu ormai domini anche il secondo mondo oltre al primo, c'è un esempio, qualcosa che assomiglia a quello che è successo l'altro giorno? Perché per me, ripeto, Materazzi e Zidane è un'altra cosa. Materazzi e Zidane è una provocazione in campo, sicuramente Materazzi l'avrà provocato, è ovvio, non è che Zidane impazzisce così da solo, però è una provocazione fra due che si stanno giocando una coppa. Però, qui c'è il terzo. Io ho preso due giornate di squalifica, Marquez niente. Qui c'è il terzo. Devo parlare? Sì, certo, cioè, ti è venuto in mente qualche episodio nel volley, sì, o nel calcio? Guarda, innanzitutto io per deformazione professionale, proprio per il ruolo che ho sempre avuto, non sono mai alla ricerca delle colpe, ma alla soluzione del problema. E qui secondo me il problema nasce dalla testa, cioè qui quando si è capito 7 giorni prima che ci sarebbero state le criticità tra vari piloti, secondo me l'errore madornale è stato quello dei direttori, dei responsabili, di non chiamare i piloti e di ricordarli, insomma, che loro sono, bravissimo, non soltanto sono dei piloti professionisti, ma sono degli esempi per quel mondo che tutti guardano. E sia secondo me nelle dichiarazioni che sono state fatte precedenti a quella gara che per l'episodio, quindi secondo me un errore a monte è stato fatto. Da quello che mi chiedevi tu, Pier, a me è capitato proprio a me quando ero direttore generale da Roma, un episodio che fa capire anche a volte qual è la dimensione del grande campione. Finale di Coppa Italia a Roma Inter, noi eravamo sotto di 1-0 e a 10 minuti dalla fine, se vi ricordate, Francesco Totti scalciò Balotelli, sì, sì, con un calcio praticamente lo fece saltare, si fece buttare fuori con un cartellino rosso a 10 minuti dalla fine, quando ancora la gara era aperta, quando ancora potevamo pareggiare e recuperare la Coppa Italia. E lui, quando io poi lo chiamai per le spiegazioni, mi disse che fu provocato anche lui, però anche lui a 36 anni, più o meno la stessa età che aveva Valentino, un campione già rodato, in quel momento gli si è spenta la luce e ha fatto quel gesto. Quindi a me è capitato questo episodio e lo paragonerei, a tal punto che mi ricordo che alla fine di questo episodio andai alle interviste di rito e dovetti dire quello che pensavo per così onestà intellettuale, certo, che Francesco aveva sbagliato, anche perché era il capitano della squadra. Ti lascio immaginare, Pier, cosa mi è successo con le radio romane a Roma. Immagino, stato attaccato da tutte le parti e mi sdoganò proprio lui, Francesco Totti, il giorno dopo, quando disse: no, Montaglia aveva ragione, io sono capitano e ho sbagliato. Sì, quindi sì, è capitato anche nel mondo del calcio quella cosa. Sì, poi ci sono altre storie di, anche di pallavolo, con formule mondiali ed europee spesso criticate perché favorivano la partita a perdere, no, Giampaolo? Esattamente la stessa cosa, però anche qui viene toccato il tasto di sportività o antisportività. Certo, sì, questo succede in tutte le discipline. Se noi andiamo a guardare nei meandri e nelle pieghe di alcuni episodi, troviamo cose di questo tipo, perché è normale. Poi c'è Zorzi che mi ha raccontato diverse volte un episodio in cui nella pallavolo, gioco di non contatto totale, in cui era talmente, aveva la vena talmente chiusa che ti diede una spallata rientrando in campo. Confermi? Sì, confermo, ero presente, perché anche per la spallata di Zorzi, no? Se non si dimentica facilmente, penso, no? No, non si dimentica, no. Poi tra l'altro pensa, in uno sport come il nostro, dove c'è questa rete che divide due contendenti, e tu devi vincere contro un avversario attraverso grinta, coraggio, determinazione, ma senza il contatto fisico, quindi certo, ci vuole un autocontrollo spaventoso. Chi vince lo scudetto tra Roma e Napoli? Alle altre le fate allora, guarda, mi piace questo tema del benvenuti al sud. Grazie, questa analisi oggettiva, a parte la mia simpatia per la Roma, che però in questo caso faccio un'analisi lucida, dico la Roma perché mai secondo me come quest'anno ha il potenziale, il talento per poter vincere questo campionato. E poi c'è un altro aspetto secondo me che usufruisce di un vantaggio di alcune situazioni, di alcune squadre tipo la Juventus, che quest'anno per una serie di fattori, per avere deciso di cambiare completamente un progetto, non è all'altezza degli anni passati. Quindi io credo che quest'anno la Roma abbia veramente una grandissima opportunità, o quest'anno mai più. Grazie Giampaolo. Grazie coach. Grazie. Giampaolo Montali, ci fermiamo per sì, ma poi... che palle, basta questa storia di Vale, siete peggio del moviolone del Biscardi, ci scrive roba da Milano, e allora ripartiremo con tutti gli altri argomenti. Ci abbiamo Lippica. Comunque oggi veramente sono arrivati 5 milioni di messaggi sono arrivati, e 50.000 telefonate. 8.0024, guarda come tronfio, guarda come contento. Torniamo subito, non è che ti danno l'aumento, questa cosa degli ascolti non cambia niente, comunque felici. Grazie, buon appetito. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracomitalia, anche in cloud. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Qui da noi sono le 7.28, da voi che ore sono? Le 7.28. Ah, bene. Ecco, io conto di arrivare lì per ora di cena, diciamo. Ecco, muori da fera. La Coppa della Calabria. Guarda, ci deve essere un'interferenza. Comunque non si preoccupi, ho il navigatore. Ci vediamo stasera, d'accordo? Allora aspetta. Come, scusi? Diceva, allora aspetta. La sciarpetta. Io direi chiederti che chiamo Boris Sollazzo, lo chiederti che film qualità, che male. No, mi piace questo tema che abbiamo prima così lanciato con Giampaolo Montali, tratteggiato con Giampaolo Montali, che reggiamo su tutti i giornali. Sinceramente è bello, credo, no? Credo che sia oggettiva questa cosa, nel senso che comunque al di là delle simpatie che ognuno ha per la propria squadra, è positivo, se non voglio fare discorsi troppo alti, per il sistema del calcio italiano, che non ci siano soltanto due o tre realtà, ma ce ne siano varie. Anche perché sarebbe qualcosa di inedito, totalmente inedito, una sfida, ovviamente. La Roma-Napoli sarebbe totalmente inedito, esatto. Senza dimenticarsi la Lazio, che è sempre lì. Poi, ovviamente, ci sono Inter-Fiorentina, ci sono le altre, secondo me la Juve sì, può ma le tornare. Però, in questo momento è ottobre, lasciaci sognare. Poi a maggio, ad aprile, magari saranno altre cose, saranno un'altra realtà. Però questa idea di una sfida per il titolo che non si è mai vista, una sfida da giocare appunto sull'asse Roma-Napoli, è certamente qualcosa di intrigante. Assolutamente. Tanto domani turni infrasettimanale, tu vai a vederti Juventus-Sassuolo, giusto? Sì, Sassuolo-Juve, vado a vederla, vado a fare la telecronaca. Mi piace questo approccio. Stasera Bologna-Inter, tra l'altro, che è un test, perché comunque alla fine... Io ho fatto, sono andato a vedere Palermo Inter l'anno scorso e ricavo sempre la stessa sensazione di una squadra buona, solida, che Mancini sicuramente ha costruito con delle spalle larghe, segna mai, ma che segna poco e che non ha tantissime idee d'attacco. Ecco, questa è la sostanza. Tant'è vero che i Cardi arrivano pochissimi palloni. Oggi è un test sulla carta, con tutto rispetto per il Bologna, perfetto per recuperare. Però è anche vero che il Bologna ci arriva un po' più sereno, ha vinto all'ultimo minuto, ha salvato la panchina, può giocarsela con la testa sgombra, no, perché la classifica ancora piange, però secondo me con un pochino più di serenità rispetto a 3-4 giorni fa. Quindi è un test molto interessante, sono anche curioso di vedere quanto turnover farà Mancini, perché... Beh, a questo punto c'è anche Icardi che potrebbe finire in panchina. Questo ragazzo, dal momento in cui è rientrato dall'infortunio che ha avuto, non si è più ripreso, non è più lo stesso, certo. Non struscia più pallone. È anche vero che di palloni questa squadra ne produce pochi giocabili per un giocatore come Icardi. Sentiamo un Mancini? Vai. Io non l'ho viste tutte, però credo che Napoli e Roma siano, di quelle che sono in testa, siano le più attrezzate. Hai capito, quindi anche Mancini, benvenuti al sud. Antonio Giordano, buongiorno, sport. Benvenuti al sud, o benvenuto al sud singolare, potrebbe essere lo scudetto, stiamo parlando anche voi. Le mani addosso, ragazzi. Non mi importa tanto se mi mette. L'uomo è grosso, a te. È grosso, io mi faccio difendere da Pardo, però insomma sarebbe, l'avete sottolineato anche voi oggi sul Corriere dello Sport, una sfida mai vista, mi sembra sia il titolo di apertura. Io dicevo, è ottobre, fateci sognare che questa sfida fino all'epilogo finale. In questo momento sono le due squadre migliori. Il Napoli, continuo a ripetere, è quella che mi piglierei in questo momento, perché è quella che ha maggiore equilibrio. Sì, sì. La Roma, il Napoli è più, diciamo, che Napoli, più il Napoli è fatto, la Roma si sta facendo. Questa secondo me è la differenza fra le due squadre. Roma forse ha più cavalli, ecco, se però parlavamo di motori. Il ragionamento, anch'io ormai da un mese, non fosse altro a questo punto, perché per partito preso continuo a sostenere l'ipotesi Napoli, perché mi sembra che Napoli stia veramente nascendo e sbocciando come un geranio in fiore. Bella questa cosa. E la Roma ha questo grandissimo, il grande argomento a favore della Roma è che, con tutti i problemi, i casini, la contestazione, Garcia, la curva che non c'è, Dzeko è stato fuori, Totti che è fuori, Strootman che è fuori, Castagna che fatica a recuperare, prima in classifica. E quindi uno dice, ma se fra tre mesi, fra quattro mesi, la metà di questi problemi verranno risolti, questa squadra o che il mercato può fare... risolverà qualche problema, certo. O il mercato risolverà qualche problema, come i tifosi da Roma. Però quello che io penso, e lo chiedo ad Antonio, è che il Napoli abbia ancora un margine di crescita. Cioè, secondo me stiamo vedendo una squadra che può diventare una squadra dominatrice. Sì, la Roma si somigliano molto, anche se sono totalmente diversi nella concezione del calcio. Hanno un blocco 11-14 giocatori che si equivale. Credo che il Napoli abbia una forza offensiva come nessuno in Italia, come pochi in Europa. Certo. E se il Pipita continua così, diventa complicato. Beh, continua così, è semplicemente il più forte giocatore del campionato italiano, no? Può continuare così, non continuare così, però forse è il migliore Higuain di sempre da quando è in Italia, ed è l'unico vero crack del campionato italano. È quello che ti spacca l'equilibrio. Dai, quindi, dai. E quindi, però, se a Natale ne parlavo poco fa con Sarri, che ovviamente fa il suo gioco, insomma, senza sbilanciarsi, in conferenza stampa ne parlavamo. Se a Natale sei ancora lì, e dopo è il dovere anche, non dico di dirlo perché non lo dirà mai, però magari di fingere di crederci anche un po' tu, al di là di quelli che sono i debiti scongiuri. E credo che in questo momento siano le squadre che si lasciano apprezzare di più, per gioco, per diversità di gioco, ma per capacità di gioco. L'una lo fa in un'altra, in un'altra, però sono belle da vedere, riescono a fare tanto. Sì. La Roma ha più problemi, come dicevo. Oggi, tra l'altro, se non sbaglio, Sarri è tornato a parlare di Maradona. Ha fatto anche una citazione radiofonica, se non sbaglio, no? Devo dire, non posso riprodurvi quello che ha detto, perché non siamo in orario protetto, ci proverò. Ha detto, vi ho già detto cosa penso di Maradona. Per me lui può dire che cazzo vuole? Vuole. Non ho capito la penultima parola, gli ho detto. Ecco. Cazzo. Però è chiaro, può dire quello che vuole, tanto rimane il mio idolo. Ci sta tutto, voglio dire, anche perché, insomma, poi Diego credo che sappia poco di quello che succede in Italia, come, ne sappia ancora meno di Sarri, insomma, del suo calcio dell'anno scorso, forse di questo Napoli. Ragiona molto di pancia in certe cose, ci sta tutto. Diego è giustamente un intoccabile persino quando parla, sì. E puoi toccarlo. Ma noi abbiamo fatto la morale a Totti? Noi abbiamo fatto la morale. C'è un messaggio di un certo Andrea che dice che facciamo spuntare l'aureola a Valentino Rossi e troviamo il tempo per fare la morale a Totti e alle radio romane. Possiamo però fare in compenso della cronaca. Giampaolo Montali. Ah, quella detto, cosa che ha detto Montali prima? Sì. Vabbè, in caso l'ha detta Montali. Montali. Montali ha detto quell'episodio Totti Balotelli, che tutti ci ricordiamo. È andato a parlare con. Tra secolo, sì. No, veramente. Cioè, è andato a parlare di Andrea, con i giornalisti. Giornalisti subito dopo la partita, Giampaolo Montali, non io parlo Radio 24 o chissà chi, e ha detto quello che pensava, e cioè che da un giocatore, la sua esperienza in quel momento, non si aspettava una reazione di quel tipo, anche se era stato provocato. La fredda cronaca. Raffaele da Napoli ci dice che lo vince la Roma. Certo, scaramanzia. Scaramanzia. Allegri invece dice pure benvenuto al sud, lo scudetto. Le favorite di Allegri? La classifica dice che in questo momento le favorite sono quelle che stanno avanti, c'è la Roma in testa, la Lazio, il Napoli. Noi dobbiamo avere le grandi motivazioni dentro noi stessi, dobbiamo innanzitutto cercare di aggiustare questa classifica, e domani credo che sia un passaggio importante per il campionato, e poi dopo vedremo più avanti. Non restare a fare, se le altre davanti le vincano tutte non le possiamo recuperare. Capito Pierluigi? Anche per lui favorite, quelle che, vabbè, banalmente quelle che stanno davanti. E qui ci ricolleghiamo al messaggio di un nostro amico che non si firma, che dice: il Napoli è come Menné alle Olimpiadi di Mosca, non c'era l'America, il Napoli o la Roma. Cioè, questo può essere anche un tema, no? È un anno comunque in cui la Juve, dopo 4 anni di dominio, sta scricchiolando, ma voglio dire, questo fa parte, no? Legittimamente, non è che toglie niente all'eventuale impresa del Napoli o della Roma. Non c'è neppure il Milan, che è tutto assolutamente tutto continuamente ancora in ballo, è possibile, insomma, perché non credo che ci siano dubbi sul fatto che la Juve abbia ancora le risorse per poter provare a rientrare. Sì, per provare a rientrare entro certi limiti. Secondo me, se Napoli e Roma continuano a correre in questo modo, può provare a rientrare ovviamente per un terzo posto che potrebbe competerle assolutamente, anche perché all'Inter crediamo ancora fino a un certo punto, al Milan non ci ha mai creduto nessuno, nemmeno Berlusconi e nemmeno Antonio Giordano, mi sa. No, al Milan no, alla Juventus sì. Sosa, che è un grande allenatore. Che ha alla detto... Juventus in grado di rientrare nella lotta a scudetto? Io credo sempre nella Juventus, credo nella forza della Juventus, nelle capacità di Allegri. Certo, i punti sono tanti, ma siamo appena alla 9ª giornata, quindi il tempo c'è. Napoli, Roma, Juve e Lazio, secondo me, questa è la mia idea. Cioè, queste sono le quattro. La penso come parte, la cosa mi inquieta parecchio. Inquieta, lo so, però è così. Nel senso che la Juve secondo me ha una forza di squadra che ancora non è inferiore alle altre, ed ha un'abitudine a vincere che è molto importante. Ha una società forte che potrebbe a gennaio intervenire sul mercato. Certo, dei punti li ha persi e non è la squadra dell'anno scorso. Cioè, in questo momento la velocità di punta del Napoli soprattutto, ma anche della Roma, mi sembra superiore alla Juve. Quindi adesso bisogna anche vedere un po' il calendario, ma è possibile che il vantaggio possa crescere, perché Napoli e Roma le vedo veramente bene, mentre la Juve la vedo abbastanza bene. Sicuramente recupererà posizioni, ma non sono così convinto che riesca subito a ridurre il ritardo. Allora, vi faccio sentire quanto ha detto Sarri, che abbiamo citato prima, su Maradona. Io quello che avevo da dire su Maradona l'ho già detto, no. È stato un idolo per me e rimarrà un idolo per sempre. È una delle poche persone che può dire quello che cazzo vuole veramente, io non me la prenderò mai. Quello che si dice alla Zanzara su Radio 24 tutte le sere. Radio della Confindustria. Beh, vabbè, siamo al top, è il signor Lombardo, signor Nicola Lombardo, che possiamo, possiamo dire che è cross promotion, a questo punto noi ricordiamo che sono disponibili gli abbonamenti, che alla Tribuna Posillipo. Vabbè, comunque salutiamo, salutiamo Nicola Lombardo. Senti, non ci facciamo mancare. No, comunque Sarri, posso dire, guarda, la rinascita del Napoli è cominciata, è un caso, non penso che sia, che ci sia un nesso, ma è cominciata nella settimana dell'affondo di Maradona. Ed è cominciata, esatto, è cominciata dopo che Maradona parla il lunedì sera a una trasmissione televisiva napoletana. Sarri gli risponde, credo, il mercoledì in maniera perfetta nella conferenza stampa pre-Napoli-Bruges, se non sbaglio. E da quel momento comincia il delirio positivo del Napoli. E è chiaro che è un caso, però in quella risposta lì, mi ricordo, ne avevamo anche parlato il giorno stesso, c'era già, insomma, la grandezza il seme di un grande allenatore. Poi successo, ovviamente, non è che Higuain segna perché Sarri ha beccato la risposta giusta su Maradona, però secondo me racconta molto dell'efficacia anche comunicativa dell'uomo. Sì, però la sensazione che io, al di là dell'efficacia comunicativa, è che abbia una grandissima efficacia nei confronti dell'allenare dei giocatori. No, ma non solo nell'allenare, nel tenerli molto uniti. Cioè, correggimi se sbaglio, Antonio Giordano. No, un Napoli così, come direbbe il presidentissimo Berlusconi oppure Andro Mercù, coeso con padrone campo padrone e del gioco. No, coeso con il suo allenatore, non si ricordava nemmeno ai tempi di Mazzarri. Andro Mercù però non sente la radio. Andro, pronto, Andro, lo chiamo, ci viene a fare un coeso, però non guarda, qua c'è la vetrata. Andro! Aspetta, De Luca, fai qualcosa, vallo a prendere, no? Il signor Mercu, che è qui fuori. Guarda, ragazzi. Devo dire che gli voglio ancora più bene da venerdì scorso, lui capirà. Da venerdì scorso? Che ho fatto venerdì scorso? Sì, cominciato a scrivere, dai. Ho cominciato a scrivere, sì. Sono stato anche a Scampia, sono anche a Scampia giovedì scorso, una giornata molto emozionante. Vabbè, dimmi questa, Antonio, rispondi a quanto ti ho chiesto. Mi sembra che tutti siano, l'hanno chiesto anche a Higuain domenica sera, glissato abbastanza, però io non l'avevo mai visto. Reina ha sintetizzato tutto venerdì con una frase cult, spero che sulla pronuncia non mi riprenda. Ha detto: è entrato non solo nella testa ma nel cuore. E devo dire che è un attestato di grande stima nei confronti di un allenatore che si portava appresso una serie di pregiudizi che non sto qui a ricordare, no? L'ha detto anche lui in conferenza stampa. Ha impiegato poco tempo, pochissimo, 3 settimane appena di campionato, poi ha rimescolato se stesso dal punto di vista non solo tecnico, attenzione, ma anche mediatico, perché quello che sottolineavi tu, Compardo, prima è vero, cioè la risposta a Maradona è lo spartiacque. Sono un uomo che si è liberato di certe paure nell'impatto anche mediatico della città, che torna ad essere se stesso. Anche oggi è stato ironico, magari anche un po' grossetto in certe cose che ci stanno, voglio dire, non siamo bambini, non ci scandalizziamo, onestamente, no? E quindi ha saputo prendere ora la città e tutto quello che c'è intorno, perché qui il calcio è un'altra cosa. Spiegarlo a Belluno, a Verona, lo so, è complicato, ma qui è un'altra cosa. Qui il calcio è l'epicentro della quotidianità. Sì, lì come a Roma, assolutamente. Come a Roma. C'è un'altra considerazione. Ma infatti che si Sarri può fare è un tipo, secondo, a parte il legame con Napoli, anche di sangue, no? di luogo di nascita, però è veramente, secondo me, per la sua semplicità, per l'essere così diretto, per essere ironico, è perfetto per allenare il Napoli o anche la Roma. Cioè, si adatta perfettamente. Ci poteva essere qualche il dubbio sul physique du rôle, con Sarri non c'è mai stato, perché credo, insomma, Antonio conosce molto meglio Napoli di me, però che la sua schiettezza, la sua sincerità, la sua cultura del lavoro, ma la sua semplicità piaccia ai napoletani, no? Lì arrivassi. Comunque, sì, è arrivato Andro Mercu, che ci deve fare un coeso. In che senso? No, devi essere solo dire coeso, alla Berlusconi, coeso. Alla Berlusconi. Beh, ci mancherebbe, certo. Allora passiamo lì. Questo, la linea. Oppure anche un Napoli. Presidente. Una buona giornata a tutti voi, carissimo Pierluigi Pardo, di solito ti chiamo Mela Marcia, ma per quest'oggi sarò un po' meglio. Un saluto anche all'amico Carlo Genta. Tu vuoi sentire da me la parola coeso? Perfetto. Basta. Grazie, tornato... vi ringrazio, sono stato particolarmente utile. Sei stato il grande protagonista. Grazie. Vuoi ridirla un'altra volta? Allora, però state zitti. Sì, zitti, così perché almeno hai parlato sento... prima. Esatto, no, hai parlato tu. No, su Coeso ha parlato hai lui. Hai parlato tu... tutti e due, va bene. Adesso silenzio che dico la parola Coeso. Perfetto, perfetto, siamo alla perfezione. Grazie Antonio Giordano. Andiamo a vincere, amico mio. Roberto da Macerata, ciao, linea Antonio. 5, via Macerata. Fra l'altro maceratese in grande spolvero, Roberto, vero? Alta classifica. Forza Maceratese, che andiamo, abbiamo espugnato il Franchi. Ah sì, pure Franchi, pure a Siena? Pure, quindi sì, adesso sì, è seconda in classifica. Seconda in classifica. Tanto. Orlandinho il gol. Chi? Orlandinho? Orlando, ma noi lo chiamiamo tutti Orlandinho. Ogni tipo di nome. Noi del Filottrano, eh? Beh, d'accordo. Sono stato a Macerata recentemente, un festival stupendo. Sì, esatto, bellissimo. Sì, ho visto. Ma non sei andato, a vedere la Maceratese, però? Eh no, era giovedì. Era giovedì. No, ma ha fatto bene. Non c'era. Comunque. Dici, Roby. Sì, io volevo interpellarvi riguardo la mia squadra, l'Inter. Visto che sto andando con mio padre a Bologna a vedere la partita, siamo partiti adesso, sentivamo Radio 24, allora abbiamo provato. Comunque, non riesco a capire le ultime, diciamo, scelte di Mancini, che per tutta l'estate si è lamentato dei giocatori, per tutta l'annata scorsa ha cercato giocatori per il 4-4-2, non riesco a concepirlo, sinceramente. Ma comunque l'Inter ha 18 punti insieme al Napoli, è secondo in classifica, potrebbe passare una notte da capolista vincendo a Bologna. È una squadra che ha una sua solidità, non prende caterve di gol come era l'anno scorso. Se vogliamo pensare che le squadre si costruiscano a partire dalla difesa, è sulla buona strada. Certo, la qualità che hanno il Napoli e la Roma l'Inter non ce l'ha. Sì, io ha ragione ascoltatore, a parte che è bella romantica questa idea, i padri e i figli che vanno insieme allo stadio in trasferta di martedì pomeriggio, i panini d'autogrill, vabbè, tutte queste stronzate, no, però belle. E sì, ha ragione, nel senso il paradosso dell'altro giorno di Palermo è stato che alla fine hai dovuto ripescare Biabiani, che è letteralmente un ripescato, per giocare un calcio alla fine più semplice, più quadrato, più logico. E l'Inter a me sembra piena di talento veramente, un po' anarchica e un po' in costruzione. Io penso che farà bene, cioè penso che stia facendo bene, non ci sono grandi dubbi. Cioè 18 punti sono comunque è un po' involuta rispetto all'inizio, però la differenza fra l'inizio e adesso è che all'inizio ha vinto delle partite senza brillare e adesso non vince, cioè all'inizio ha perso delle partite che poteva pareggiare e adesso pareggia delle partite che potrebbe vincere, perché a Palermo poteva vincere un pizzico di fortuna in più, così come con l'Atalanta, senza la dormita dell'Atalanta e la perla di Jovetic non vincevi, a Modena col Carpi, contro il Verona, insomma, quindi mi sembra quella, e mi sembra una squadra che se riuscirà a governare la pressione che c'è sempre, perché anche lì è troppo tempo che non si vince, farà un buon campionato secondo me, più da Europa League, più da quarto sesto posto che da prime tre, però magari mi sbaglio. La sensazione è che sia sempre Jovetic, se sta bene l'uomo, in grado di accendere la luce. Ma poi anche l'Inter potrà fare altre cose, Mancini è bravo, insomma, mi sembra il giudizio fino ad oggi è un giudizio positivo. Sicuramente dalla prima alla nona giornata non c'è stata un'evoluzione. Giuseppe da Bergamo. E poi chiudiamo perché abbiamo un minuto. Giuseppe. Buongiorno. Come va? Buongiorno. Dica. Buongiorno. Avevo due domande. Vai. Una per Pardo, il signor Pardo. Sì. Signor Pardo, dica. La sua bellissima trasmissione Tiki Cacca, non potrebbero mandarla in onda un momentino più tardi? Sa che non è il primo che lo dice, io non so. Ma lui ha detto un pochino non più, so tardi. Più tardi. Ci arriva al mattino. Sì, infatti, arriva mattina. Per sfidare Agora, che è il programma che seguo quando mi sveglio la mattina su Rai 3. Questa l'avevo già sentita. Giuseppe, questa l'avevamo già sentita qualche grazie, volta. Però grazie, insomma, siamo molto contenti, devo dire la verità, adesso poi siamo in una fase in cui non si può dire niente, però siamo felicissimi e chiaramente insomma Iene sono un signor programma che ci fa anche un bel traino. Detto questo, la seconda c'era una seconda. La seconda è sì. Non pensate che sia finito veramente l'effetto Conte sulla Juventus, perché nonostante tutto la squadra è molto improduta ancora, e Allegri non riesce ancora abbiamo, a trovare il non abbiamo capito perché deve aver rubato il telefono a Parma. L'effetto Conte è finito. Per me l'anno scorso l'effetto Conte era già finito la prima giornata, nel senso che la squadra è forte, sicuramente Conte è stato straordinario nel cambiare la storia recente della Juve, ma Allegri secondo me l'anno scorso ha fatto una grande stagione, quest'anno tanti acquisti nuovi, una rivoluzione, sta un po' faticando, ma credo che tornerà. Salutiamo tutti, Giorgio De Luca, Gianmarco Melchiori, Peronato, De Luca, ci sentiamo domani, Capuano lo salutiamo. Salutiamo anche Capuano. Vogliamo bene, ci avrà sentito. La Scaglioni, salutiamo. Scaglioni, la salutiamo. A Sampdoria, a saluti. Saluto. Ciao Pier. Ciao. Ciao, a domani. È finito.